scioperiamo contro il genocidio in Palestina e reclamiamo l'immediato cessate il fuoco su Gaza. Richiediamo la fine dell'occupazione e del sistema di apartheid e dell'occupazione coloniale in Palestina. Oggi siamo al fianco delle donne palestinesi che ci hanno chiesto di scioperare e noi abbiamo accolto il loro appello. Siamo con le donne palestinesi che resistono e lottano per la propria autodeterminazione. Siamo con le donne e le persone trans che in tutto il mondo richiedono una politica di pace. Ci opponiamo alla violenza sistemica patriarcale che donne, persone disabili, persone razzializzate, lesbiche, froce, bisessuali, trans, queer, intersex, asessuali, sex workers e detenute vivono ogni giorno e di cui femminicidi e transcidi non sono altro che la piccola punta di un iceberg. Ci opponiamo al governo che tratta la violenza patriarcale come un tema emergenziale e securitario, mentre sappiamo che la violenza patriarcale è sistemica e invade tutti i giorni le nostre vite. Abbiamo bisogno di centri antiviolenza finanziati, gestiti da realtà femministe e transfemministe in grado di accogliere e supportare tutte le donne e le persone trans. Abbiamo bisogno di case, di spazi politici in cui elaborare insieme i nostri vissuti, costruire relazioni diverse, praticare cura e trasformare tutto. Ci opponiamo alla violenza sistemica economica perché siamo pagate sempre meno, siamo sempre più povere, siamo sempre più precarie e sui posti di lavoro veniamo molestate. Ci opponiamo alla politica economica di questo governo che aumenta l'utilizzo dei contratti precari, supporta solo le grandi aziende e smantella il welfare, il sistema sanitario nazionale e la scuola pubblica e la ricerca pubblica, aumentando a dismisura il lavoro gratuito che pesa sulle donne e su tutti i corpi femminilizzati. Ci opponiamo al progetto Dio, Patria e Famiglia delle nuove destre italianissime e globali. Ci opponiamo alle politiche sessiste, razziste e nazionaliste di questo governo che spingono le donne bianche italiane a fare figli per la patria mentre discriminano le famiglie arcobaleno e ostacolano l'autodeterminazione delle persone e delle adolescenti trans, i cui percorsi di esistenza vengono costantemente attaccati. Ci opponiamo al moltiplicarsi dei CPR, al decreto Cutro e a tutte le leggi securitarie che intensificano il ricatto del permesso di soggiorno, legandolo a un lavoro sempre più sfruttato, sottopagato e senza tutele. Rivendichiamo oggi con forza una scuola transfemminista! Dove i servizi non siano esternalizzati e dove si insegni un'adeguazione sesso-affettiva dalla scuola dell'infanzia fino ai 18 anni. Un sistema educativo che non sia basato sulla competizione, sul merito e che non riproduca violenza etero, cis, patriarcale, coloniale e disuguaglianze. Per tutto questo oggi siamo in piazza, sciopero globale transfemminista. dall'Argentina fino all'Italia per la Palestina.